Safari Beach. E se vi sembrerà un pochino chic, benvenuti a Safari Beach. Signore e signori, benvenuti al Safari Beach. Prego avvicinarsi al Safari Beach. Dove vai? Se ne vuoi lì. Guarda, guarda, il tartin pescatore è laggiù che palla da ore. Fa attenzione al pitone reale. Meglio scappare col tapio. Andiamo in giro con la pantera. Usciamo la sera, guarda lassù, c'è il marabù. Se ci provo io, provaci anche tu. Ciao ciao a tutti, benvenuti al Safari Beach, al Safari Beach. E se vi sembrerà un pochino chic, benvenuti al Safari Beach. Signori e signori, ben trovati al